È una necessità che nasce dal bisogno di mantenere una mobilitazione, di far esprimere la nostra città, la piazza bella che ha fatto 2 settimane fa. Siamo temerari, vogliamo tornare a riempirla. Siamo in tanti a spingere per riempire questa piazza, nessuno è così forte o bravo da riempirla da sola, ma questa è proprio la sfida che ci piace, saper mettere insieme, come in un portico si incontrano le persone, saper mettere insieme anche istanze, sensibilità, anche leggermente diverse fra di loro. Ricercare di parlare tutti con la stessa voce non solo è inutile, ma credo che non sia nemmeno apprezzabile. C'è un coro di sensibilità, sarà una piazza ricca, diversa, anche di approcci che non sono esattamente identici. Ma credo che davanti al dramma, alla tragedia di un popolo sotto attacco e davanti a un'azione che è da condannare senza riserve, senza se e senza ma, è inutile che noi giochiamo a fare il distinguo. E Bologna, io voglio che la mia città esprima una piazza forte e unitaria, pur nella coralità delle voci. Proprio su questo, visto che con la fiaccolata precedente c'era anche chi aveva storto il naso per un cartello che c'era in piazza che chiedeva l'intervento. Noi abbiamo storto il naso, le orecchie, tutto quello che è storcibile in un corpo umano. Purtroppo, devo dire, non siamo nemmeno professionisti della piazza. In quel caso, una persona che aveva un cartello con scritto davanti una cosa e che compagno stava verificando e approfittando un attimo di distrazione ha allungato il cartello che sul lato posteriore aveva quella scritta. È stato un incidente, non ne siamo assolutamente felici, è un contenuto che non corrisponde né al senso né al resto del discorso che è stato fatto in quella manifestazione. Infatti quello che ti volevo chiedere è proprio, appunto, voi ribadite la contrarietà alla guerra, all'intervento militare. E è sicuramente la sensibilità e la posizione di tutto il movimento per la pace fin dall'inizio. Sappiamo bene, esperienze molto recenti di conflitti che sempre più si avvicinano alla nostra fortezza europea ci insegnano che la soluzione violenta armata dei conflitti prepara le guerre dell'indomani, oltre che ad allungare drammaticamente i tempi del conflitto e il bagno di sangue versato. In più, in questo caso abbiamo, e qui noi pensiamo che dalla piazza si debba alzare una voce e che arrivi ai decisori e ai politici, perché è chiaro che qui siamo davanti a una guerra che per molti versi non si può fare e in cui non ci sono disponibili tutte le opzioni, perché dietro l'angolo c'è il conflitto nucleare e l'inverno atomico nel nostro continente. Sarà, come dire, la vostra mobilitazione all'interno, vedevo, di una mobilitazione europea. In realtà c'è una coincidenza temporanea, però la nostra piazza non è una piazza di Eurocity, la piazza di Eurocity principale è a Firenze, Bologna fa la sua piazza, sicuramente c'è un richiamo, credo che i nostri contenuti siano un po' più schietti, un pochino più espliciti della piattaforma di Eurocity, però ripeto, credo che noi vogliamo avere poi questo tratto distintivo, di saperci guardare attorno, di guardare il cerchio e di saper vedere che c'è un coro, ognuno canta con la sua voce, c'è chi ce l'ha più forte, c'è chi ce l'ha un po' più debole, un po' più sottovoce, ecco. Però insomma, naturalmente il sindaco, che è anche coinvolto in Eurocities, però passerà anche da noi, nel senso che onora il fatto di essere l'ospite di casa e c'è la piazza della sua città che si ritrova. Però diciamo che è la nostra manifestazione e sono i contenuti del nostro comunicato, quelli che sono disponibili su tutti i social. Siamo impegnati a spingere per riempire questa piazza. Posso già anticipare, abbiamo gli Intilimani con noi e poi anche un altro gruppo di cui però mi riservo di dare conferma, visto che non abbiamo ancora la veste ufficiale. Quindi l'appuntamento è per sabato in piazza, noi iniziamo alle 5.